1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Siamo qui, sono le 7:19 minuti, forza debosciati d'Italia e di tutto il mondo, anche perché ormai ci ascoltate da tutto il mondo. Infatti noi ogni giorno chiamiamo uno di voi che ci ascolta dall'estero alle 8:50 nel nostro Ciao Italia. E insomma, dicevo, forza debosciati, l'85esima settimana decisiva per la riforma elettorale, l'abolizione delle province è già cominciata, anche questa settimana sarà decisiva. Chissà, noi intanto parleremo di compiti e di scuola alle 8:15, cari genitori, scuola e compiti. Vi vedo già reduci dal classico weekend, basta, basta, compiti a casa per i figli, basta. A lamentarsi così ne parleremo, perché l'Italia è una delle nazioni in Europa dove si assegnano più compiti a casa. È un bene? È un male? E discuteremo dalle 8:15. Intanto andiamo a sfogliare i quotidiani. Questo lunedì 15 dicembre i titoli sono dedicati a cosa? Beh, il Sole 24 Ore: per la riforma fiscale attuazione ferma al 15%, è il bilancio a 100 giorni dal termine dopo il rinvio del pacchetto sulla certezza del diritto. Mentre la politica oggi esonda dai giornali, e d'altronde c'è stata l'assemblea del PD, è lunedì, quindi la domenica c'è solo cronaca nera e politica. Corsa al Colle, prime scintille, questa è l'apertura del Corriere della Sera, sulla corsa al Colle, e abbiamo ancora il Presidente della Repubblica, ma si pensa già a quello dopo. Repubblica, PD, la sfida di Renzi, non accetto diktat, con l'Ulivo persi 20 anni. Per la Stampa, la sfida di Renzi, basta diktat. Il Secolo XIX, rissa nel PD, ma Renzi non strappa. Il Giornale, i giochi sporchi sul Quirinale. Il Messaggero, Renzi, metodo Ciampi per il Colle. E se non sapete cos'è il metodo Ciampi per il Colle, il mio invito è sempre il solito: tranquilli, siete voi i normali, e sono loro quelli un po' strani. I normali siete voi. Ma voglio partire da una notizia che oggi dalla Stampa, ma anche sul Messaggero, il quotidiano nazionale, viene messa con ampio risalto. Ci siamo, cari italiani, per la riscossa oggi. Renzi, che andrà a una celebrazione del CONI, al Salone d'Onore del CONI, in occasione della cerimonia della consegna dei collari d'oro al merito sportivo, farà l'annuncio. Ormai è certo. Roma sarà candidata alle Olimpiadi del 2024. Anche da qui parte la riscossa. Giochi 2024, parte la corsa di Roma, e sarà una corsa, come racconta la Stampa, come racconta anche il Messaggero, che coinvolgerà tutta l'Italia. La Stampa addirittura racconta, pagina 3, con Guglielmo Buccheri, che ci sarà il volley a Firenze, questo nel progetto italiano. Ecco perché Renzi andava sempre a vedere la nazionale italiana di pallavolo femminile. La canoa a Milano, abbiamo l'idroscalo, e anche le altre città pronte a partecipare: in Sardegna la vela, a Napoli la pallanuoto, dove c'è una forte tradizione. Ecco qui, a certe condizioni sarà insomma consentito sconfinare, in lista appunto anche la Sardegna. Anche per il Messaggero: Olimpiadi a Roma, gare in tutta Italia. Evviva, oggi l'annuncio della candidatura della capitale per il 2024. Faranno parte del progetto Napoli, Firenze, la Sardegna. Milano non viene citata dal Messaggero, ma secondo la Stampa c'entra anche Milano. Saranno coinvolte anche altre città. Costi minori rispetto alle ultime edizioni, in linea con le scelte del CIO. E insomma, anche per il giorno l'evento è da celebrare. A pagina 6, Olimpiadi, oggi Roma si candida, Renzi è per il futuro dell'Italia. Allora, siete felici di questa rinascita che potrebbe ripartire con questo annuncio? Roma candidata alle Olimpiadi. Prima avevamo Antonio Di Pietro che ha detto: attrezziamoci bene, costruiamo grandi carceri. Vabbè, sarà subito messo nella lista dei gufi. E va bene, il quotidiano nazionale dice e scrive che anche il Vaticano è pronto ad aprire le porte ai giochi. C'è un'intervista al cardinale Martins che dice la Chiesa ha sempre incoraggiato lo sport. E dunque suonino le trombe, rullino i tamburi, siamo pronti al rilancio dell'Italia attraverso questo annuncio che verrà fatto oggi. Questo almeno giurano tutti i vari quotidiani. Beh, invece, se dobbiamo parlare di corruzione, poi vedremo qualche articolo ancora di Roma. Oggi il Sole 24 Ore ha un articolo di Antonello Cherchi e Valeria Uva non molto ottimistico, perché poi si vede da queste cose qui che ci sono i proclami e ci sono i fatti. Eccolo qua, anticorruzione, la vigilanza segna il passo. Dopo un anno dalla prima scadenza, la metà di regioni, comuni, ASL, ministeri che dovevano per legge dare i piani, dotarsi di piani di prevenzione per la corruzione, non si sono dotati di nulla. È diffusa la tentazione invece di chi si è dotato di questo piano anticorruzione del copia e incolla di documenti preparati da altri, che ne so. Cito a caso, non è il comune di Viterbo fa un documento fatto bene e il comune di Forlimpopoli lo copia e via. Ecco, questa è la serietà. Ho citato ovviamente dei comuni a caso, Forlimpopoli mi piace talmente che lo cito sempre. Comunque, la lotta alla corruzione, scrive il Sole 24 Ore, nella pubblica amministrazione si ferma al primo gradino. A un anno dalla prima scadenza, la metà di comuni, regioni, ASL e ministeri ha rispettato l'obbligo di adottare un piano triennale anticorruzione. Dove vogliamo andare? Se neanche dal rispetto banale delle leggi di dotarsi di un piano anticorruzione, anche questo non viene rispettato. E comunque il dato di fatto è questo. Ma io voglio dare un premio, l'abbiamo fatto anche alle 6.30 per chi ci ha seguito. Il premio oggi l'ho trovato su Repubblica, pagina 23, genio del momento. È davvero da dare a un negoziante del Bangladesh, tale Asadullah, che ha un negozietto a Torino, in Corso Belgio. E come ha chiamato questo negoziante del Bangladesh? Beh, sapete che c'è il celebre Italy di Farinetti, e allora lui l'ha chiamato Eat Ali, mangia Ali, Italy. Beh, ma un genio, talmente geniale che, pensate, la catena di alimentari Italy, quella vera, ha comprato una pubblicità a tutta pagina sull'edizione torinese di Repubblica con questo titolo: complimenti Italy, copiare, lo dicevano già sui banchi di scuola, è un'arte e bisogna farlo con stile. Asadullah, un giovane bengalese gestore di un piccolo negozio di alimentari in Corso Belgio, ha dimostrato grande senso dell'ironia e doti imprenditoriali, chiamando il suo emporio Italy. Siamo orgogliosi e divertiti, infatti abbiamo fatto i complimenti ad Asad, che si è dimostrato nostro grande fan. Cioè Italy, quella vera, ha comprato una pagina per fare i complimenti a questo bengalese che si è inventato il nome Italy per il suo emporio a Torino. E va bene, complimenti allora a questo Asadullah a Torino, anche da Farinetti. Ma siamo al momento, mani sul volante, l'articolo che ci fa pensare di questo inizio settimana, perché nella legge di stabilità sono comparsi i soliti emendamenti governativi, racconta Roberto Petrini su Repubblica. E in questi emendamenti governativi casualmente vengono piazzati sempre dei milioni di euro che finiscono nelle pieghe degli ultimi provvedimenti. E allora, dal Duomo di Milano a Chernobyl, ai TIR, in extremis il governo elargisce fondi a pioggia. Ci sono anche fondi importanti, come appunto per mantenere la memoria di Auschwitz, oppure 6 milioni per la tragedia nucleare a Chernobyl. Ma ci sono poi 30 milioni per il terremoto di Catania, Ragusa e Siracusa nel 1990, 15 milioni per la linea Andorra finale Ligure, ci sono 15 milioni per il traffico sullo stretto di Messina, anzi 30 milioni, 15 milioni per il Duomo di Milano. 70 milioni alla Val d'Aosta per far fronte alla perdita del gettito delle accise. In Sardegna vanno 50 milioni per investimenti che, dice Repubblica, magari saranno anche importanti, ma non si capisce perché, se sono davvero importanti, vengono piazzati così all'ultimo giorno, all'ultimo emendamento, o se li sono scordati, e comunque è grave, oppure non sono così importanti e forse è ancora più grave. Non è possibile una roba del genere, vergognatevi, cazzo! Alessandro Milan, pisellino dell'informazione! Sì, quello di Braccio di Ferro, me lo ricordo, alle 7:32 minuti. Allora, cari ascoltatori, siamo qua pronti a leggere ancora i giornali. Giornali che oggi ci offrono molte pagine dedicate a quello che è successo ieri in politica. Renzi, l'assemblea del PD, Fassina che urla contro Renzi, Civati che dice faccio un partito poi non lo faccio più, Renzi che dice non urlate, stiamo insieme, doveva esserci la resa dei conti non c'è stata, tutti i giornali raccontano che è un Renzi che in pratica ha fatto prevalere la linea morbida per tutto questo, che insomma non ha portato a nulla di fatto. Ci sono 5, 6, 7 pagine sui giornali. E poi c'è il dibattito sulla corsa per il Quirinale. Abbiamo un Presidente della Repubblica assolutamente in carica, ma si sa come funzionano queste cose in politica, bisogna già guardare un po' avanti, tanto Napolitano tra poco si dimetterà, e quindi dibattitone su quale sarà la strategia per la corsa al Quirinale. Insomma, di questo vi dovete accontentare per i giornali di oggi. Per quel che riguarda quello che è successo ieri all'assemblea del PD, la linea morbida prevale, come racconta Goffredo De Marchis a pagina 2 e 3 di Repubblica. Deve essere chiaro che se il patto del Nazareno salta o viene arricchito impropriamente con la corsa al Quirinale, la colpa è di Berlusconi. Questa è la linea Renzi, che dice ai suoi: confermo l'Italicum al Senato, si vota prima dell'elezione del Presidente della Repubblica. Ma per evitare tutto questo cortocircuito, Renzi cosa doveva fare? Doveva tenere e deve tenere unito il più possibile il PD. E così si spiega la virata all'assemblea di ieri, dove non è stato presentato alcun documento contro la minoranza, dove non c'è stato alcun voto politico contro i dissidenti. Significa che ha vinto una linea di mediazione, sponsorizzata da Lorenzo Guerini e Roberto Speranza e sposata dal segretario, una linea sulla quale si regge, al di là della scissione di Civati, dello sfogo di Fassina, la tregua tra i renziani e l'ala guidata da Pierluigi Bersani. Lo so che mentre state facendo quelle vostre colazioni queste cose non ne frega nulla, ma neanche quando fate i pranzi e quando fate le cene. Voi pensate, non siete molto strani, come dico, alla TARI, alla TASI, alle scadenze, alle cose da fare, alle multe da pagare, ai figli da portare a scuola, al mutuo, ma è normale, come sempre, però i giornali rappresentano invece questo tipo di realtà. Per esempio Fabrizio Roncone, a pagina 3 del Corriere della Sera, un'intera pagina di retroscena, il suo articolo inizia così: dopo 2 ore abbiamo tutti capito che anche questa assemblea del PD sarebbe finita nel latte e miele. Delusione in sala stampa e l'annunciata resa finale dei conti. Ecco, questo è l'inizio dell'articolo di Roncone. Però che succede? Nel momento in cui sono stati mandati 4, 5, 6 inviati pensando che sarebbe successo chissà quale cataclisma, ecco che ci sono 5, 6, 7 pagine sui giornali. È inevitabile. Quindi una pagina di colore tra scissionisti a fasi alterne, con lo stesso Civati, che è considerato uno dei più scissionisti, che dice: beh, insomma, questa faccenda di me che lascio il partito sta diventando un po' comica. Lo stesso Civati lo riconosce. E anche Filippo Ceccarelli su Repubblica fa un'intera pagina, pagina 4, in realtà finisce così: buon Natale di cuore a tutti noi. Così si congeda il segretario presidente Renzi, se da una parte suonava come un augurio gentile, dall'altra era il segno che l'assemblea del PD finiva inesorabilmente a panettone e spumante, che è la versione natalizia dei tarallucci e vino. E anche qui però su Repubblica 4 pagine per raccontare nulla. I retroscena forse più interessanti vengono da che cosa? Berlusconi che dice, intervenendo telefonicamente a una kermesse di Forza Italia, nel patto del Nazareno ci deve essere anche il nome del Quirinale. E subito dal PD dicono: non è vero, nel Nazareno non c'è il Quirinale. D'altronde nessuno conosce i dettagli del Nazareno in maniera pubblica, e quindi ognuno può dire quello che vuole. Comunque, una pagina del Corriere: per il Nazareno vale il Quirinale, Berlusconi agita la maggioranza. E a pagina 6 del Corriere, quindi siamo già alle prime 6 pagine del Corriere, Renzi avvia le manovre sul Colle. Per avviare le manovre per il Quirinale manda Lotti, che è sottosegretario e che è un suo fedelissimo, dai parlamentari del PD a discutere la strategia su come dovrà essere nominato il nuovo coinquilino, il nuovo inquilino del Colle. Ecco, secondo il Messaggero, questa strategia è il metodo Ciampi. Ora, attimo di suspense. Tu, Lorenzo Nespoli, sai cos'è il metodo Ciampi? Tu, Peter Bescapè, il metodo Ciampi? Ma come, ignorantoni. Neanch'io so cos'è il metodo Ciampi. Ma il metodo Ciampi è questo: il PD farà un nome ai partiti. Questo è il metodo Ciampi, di come fu eletto Ciampi nel 1999. A proporre il nome di Ciampi, che era ministro dell'economia, fu allora Massimo D'Alema. L'altra strategia, invece, secondo La Stampa, Renzi la mette in moto con un SMS. L'SMS è stato inviato da Renzi a Prodi per dire: ci vediamo. E può darsi che questo "ci vediamo" si possa concretizzare oggi stesso. Lo stesso Fabio Martini sulla Stampa racconta, pagina 5, che tra i due non è mai scattato un grande feeling, ma un vis-à-vis sincero non se lo sono mai concesso e forse ora ci sarà. Oh, tutti più rassicurati. Renzi forse vedrà Prodi per la corsa al Quirinale. E così è, non è che... E siamo arrivati alle pagine 7, 8, 9 dei giornali con notizie zero. Allora, poi ci sono le vicende di Roma. Beh, intanto una vicenda curiosa, come racconta il Messaggero a pagina 7: a Roma, quando sono andati a casa nella villa di Carminati per fare i sopralluoghi dopo che è stato arrestato, hanno trovato 4 cani, e fin qui va bene, e un cinghiale. Il Messaggero si chiede: ma che ci faceva un cinghiale che scorrazzava libero nel giardino di Fabrizio Carminati? Comunque, insomma, il cinghiale, i cani, i 4 cani e il cinghiale, un piccolo cinghialino trovato dagli investigatori durante la perquisizione. Comunque, riguardo a Roma, la notizia più importante, secondo me, è il fatto che l'assessore Cutini, che tra l'altro è stata nostra ospite, assessore ai servizi sociali, qualche giorno fa proprio l'abbiamo chiamata perché dalle intercettazioni si evinceva come lei era definita inavvicinabile dalle stesse persone finite in carcere. L'assessore Cutini è stata silurata ieri, o meglio, dopo un confronto con il sindaco Marino, si è dimessa. Cambio nella giunta Marino, a pagina 9, sostituita l'assessore alle politiche sociali. Effettivamente c'è un qualcosa. Tra l'altro, la Cutini è accusato, c'era un circolo di connivenze criminali. Ho aspettato l'incontro col sindaco per valutare se finalmente ci fossero nuove condizioni per rimanere, ma non le ho ravvisate. Comunque, sulla vicenda di Roma oggi si registra che cosa? Un'intervista del Corriere della Sera a Micaela Campana, che qualche giorno fa aveva già parlato con Repubblica, ora parla anche al Corriere della Sera, si difende per quel bacio grande capo che ha mandato via SMS a Buzzi, e si difende come aveva fatto Repubblica, dicendo: chiamo un sacco di gente così da quando ero ragazzina, ci sono decine di persone che possono testimoniarlo. Così intervistata da Tommaso Labate, Micaela Campana, a pagina 9 del Corriere della Sera. Tra l'altro, ex moglie, ora sono separati, con l'assessore, con l'ex assessore Daniele Ozzimo, che è finito indagato, ma dice di lui: confido che si dimostrerà innocente. Tra l'altro, su Roma è da registrare oggi un'intervista all'ex terrorista nero, ex dei NAR, Luigi Ciavardini, che viene intervistato da Maria Elena Vincenzi a pagina 11 di Repubblica, perché anche lui finisce nelle intercettazioni. E anche lui conosceva ovviamente Massimo Carminati, ercecato. Anche lui conosceva Salvatore Buzzi, passato in carcere. E anche lui, Ciavardini, ha fatto una cooperativa un'associazione per il reinserimento dei detenuti. Dice però Ciavardini, a patto che non si pensi che il modo di lavorare delle cooperative dei detenuti è quello di Buzzi. Detta da me può sembrare una battuta, ma non si può fare di tutta l'erba un fascio. Effettivamente, insomma, Ciavardini sembra una battuta anche di cattivo gusto, lui che ha passato 34 anni, una trentina di anni in carcere, no, una 25 circa, ha scontato parte della pena, è stato condannato soprattutto pur essendosi dichiarato sempre innocente per la bomba alla stazione di Bologna. Ora Ciavardini racconta dei suoi rapporti personali con Buzzi, una persona che ho conosciuto per lavoro, ha sempre dimostrato grande professionalità, dirla mica è una parola che può essere male interpretata. E poi alla domanda, beh, ma insomma, eravate tutti nel giro dell'estrema destra, anche con Carminati, Zurlo, Brugia, ma in periodi diversi, e poi sentite Ciavardini che dice, e poi secondo lei quella è gente di estrema destra? Beh, a dir poco, se lo dice lei. A me sembra che a loro interessi solo il denaro. Così Luigi Ciavardini si difende, o meglio, spiega alcune cose su Repubblica. Vabbè, intanto Giorgia Meloni scalda i motori e dice ora cadrà Marino e mi candido sindaco io. Su Repubblica Giovanna Vitale, Meloni pronta a candidarsi sindaco, Meloni che chiama il sindaco Marino Kung Fu Panda Marino per la vicenda della panda. E vabbè, ci mancava questa. Mauro Meazza, hai visto che è ripartito il campionato alla grande? Buongiorno, no, non ho seguito. Stasera mi pare che ci sia una partita. Ma anche ieri un anticipo, dai. Salutiamo tutti gli amici di Napoli, abbraccio a tutti i napoletani. Euforico, ma sarà perché hai saputo che domani con il Sole 24 Ore diamo anche un DVD con il film di Totò, è per quello. Il legame volevi farlo per Totò, quello. Cioè, Napoli, è per quello. Per quello parli di Napoli. Certo. Ah, ecco, ma infatti non me lo spiegavo com'era questa tua passione improvvisamente per Napoli. Però adesso lo capisco, sì, perché da domani, come sai, cominciamo questa collana appunto di Totò e tra l'altro cominciamo con Miseria e Nobiltà, uno dei capolavori del genere. Vabbè, ma tutto questo da domani. Invece oggi hai visto che sulla riforma fiscale praticamente mancano 102 giorni oggi, credo saranno 100 dopodomani. E siamo in ritardo, ma dai. Ma un pochino, siamo al 15%, abbiamo stimato, del lavoro da fare. Però no, ma adesso recuperiamo, noi lo diciamo perché ci farà poi piacere riferire della grande accelerazione. Hai visto che parliamo anche dell'abolizione delle province, tu che sei così attento. Ebbene sì, dove vanno il personale in esubero? No, questo è un problema serio. Questo è un problema molto serio, sì, ci sono più o meno 20.000 persone, poco meno di 20.000 persone che alle quali bisognerà trovare un posto alternativo, insomma, perché d'accordo la soppressione, il mutamento, diciamo meglio, degli enti, però ci sarà anche da trovare qualche cosa per queste persone che restano a spasso. Ricordati che domani c'è da pagare l'IMU e la TASI. Ricordati che devi morire. No, per carità, segno. Segnatelo, perché poi non facciamo che non te lo ricordi, devi ricordare il ravvedimento. Già pagato. Bravo, tu sì che fai onore al settore tributario. Volevo dirti che oggi ti ricordo che c'è tutto lavoro lì proprio da noi, in casa nostra, alla sede del Sole 24 Ore, discutiamo del Jobs Act e tra l'altro sul Sole 24 Ore, ma anche ricordiamo com'è tutto questo anno di rivieni di incentivi per le assunzioni, un po' restano, un po' cambiano, un po' spariscono, insomma non è una cosa semplice, cerchiamo di mettere un po' d'ordine con i contributi di Alessandro Meris, di Valentina Meris e di Alessandro Rotaporta. Però poi cioè, di tutto si discute lì alla sede Sole 24 Ore stamattina. Posso dedicare una radiofisco al mio dentista? Sì. Ecco, perché vorrei dirgli che può dedursi le riviste in sala d'aspetto. Sì, l'ho letto oggi sul Sole 24 Ore, nelle pagine ovviamente di norme e tributi. Sono deducibili le riviste della sala d'aspetto. Lo volevo dire al mio dentista che aspettava appunto, segue con interesse la materia fiscale, oltre che la mia dentatura, e volevo segnalargli che c'è questa cosa. Scherzi a parte, c'è tutto anche un riepilogo sulle spese sostenute dai professionisti e sul trattamento che devono tenere. Bene, altro non ti vuol dire, anche perché c'ho da fare, c'ho il tutto lavoro e poi devo andare anche a Verona stasera che c'ho un impegno con i ragazzi, esatto. Poi vediamo, magari invece trovo, magari non riesco ad arrivare in tempo, sai perché, caro Alessandro? Perché potrei trovare traffico! Alessandro Milan, il falso 9 dell'informazione. È un po' come Menes, un po' come Menes, no? Il falso 9 dell'informazione. Menes, colui che ha fatto il primo gol ieri, no? Ve lo ricordate? Il primo gol di ieri, ma dai, gol di Menes, vabbè. Amici di Napoli, comunque un abbraccio a tutti quanti, eh. Va bene, alle 7:48 minuti siamo qui a leggere i giornali. Allora, il giornale mette in prima pagina un articolo di Luca Fazzo con un titolo di questo genere: La firma che inguaia De Benedetti. È una vicenda di Carlo De Benedetti per le morti d'amianto all'Olivetti. Non solo responsabilità oggettiva, non il consueto non poteva non sapere, perché per la procura di Ivrea l'ingegnere stava in testa alla catena di comando che doveva vigilare sulla salute di chi lavorava negli stabilimenti del gruppo e aveva ben presente come l'amianto fosse quasi ovunque. Era De Benedetti, come amministratore delegato, a scegliere direttamente i manager della sicurezza, visto che, racconta il giornale, c'è la sua firma su una serie di nomine, c'è la sua firma insieme a quella del presidente dell'epoca Bruno Visentini sul provvedimento che il 25 settembre nomina capo del servizio centrale di sorveglianza dell'azienda Silvio Preve, ovvero il manager che il rapporto dell'ASL di Ivrea indica come responsabile prima del servizio centrale di sorveglianza e poi della divisione sicurezza industriale. Insomma, l'attacco del giornale è questo, una pagina 17, morti per l'amianto, ecco la firma che inguaia De Benedetti, secondo la procura di Ivrea che indaga. Mentre se avete preso oggi un treno o se state per prenderlo, cari pendolari, racconta il Corriere della Sera con Sergio Rizzo che 1000 chilometri di ferrovie regionali si sono perse per i pendolari. È il rapporto di Legambiente, un rapporto pendolaria che racconta appunto come ogni giorno 90.000 passeggeri in meno prendano i treni, colpa dei tagli, colpa degli aumenti delle tariffe. L'emblema è questo: sempre più difficile, per esempio, la linea ferroviaria Cosenza-Paola. Sospettano l'esistenza di un disegno malizioso. Fino a qualche giorno fa il regionale 12682 partiva alle 7.39, ora parte alle 7.46 e di pochi minuti in pochi minuti è un lento avvicinamento al momento in cui gli insegnanti delle scuole di Paola, che sono fra i principali abituali utilizzatori di quel servizio, dovrebbero cominciare le lezioni, col rischio di arrivare in ritardo. L'alternativa è prendere o la levataccia e prendere il treno regionale prima delle 6.39, oppure prendere l'auto. E quando tutti o quasi prenderanno la macchina, il treno non avrà più senso e dunque verrà soppresso. Questa è l'idea del complotto che alcuni pendolari si sono messi in testa, come dire, c'è una strategia per disincentivare sempre più l'utilizzo dei treni in modo che i treni poi possano essere tolti. Insomma, la sensazione in questo rapporto che racconta Sergio Rizzo sul Corriere della Sera è che negli ultimi 11 anni, e questo è un dato di fatto, sono state chiuse in Italia 24 linee ferroviarie per un totale di 1189 km e 200 metri persi. Sono soprattutto linee per pendolari. Leggete l'articolo a pagina 21 perché riguarda voi. Mentre per quel che riguarda gli sviluppi in provincia di Ragusa per l'uccisione di Loris, è da registrare solamente, secondo me, dal punto di vista della cronaca, l'articolo di Enzo Bettizza a pagina 16 della Stampa. Bettizza chiede esplicitamente: ora i talk show tacciano. È una vecchia diatriba, la questione del parlare, non parlare di queste vicende. I programmi sono nettamente quelli più seguiti poi dalla gente, e il tema della TV del dolore. Scrive Bettizza: invochiamo pietà e silenzio sulla vicenda di Loris, di cui si è parlato e si continua a parlare. Nelle ultime due settimane è stato impossibile, anche con l'ausilio del telecomando, non imbattersi in trasmissioni che insistevano nella ricerca e nella rivelazione del dettaglio morboso. Una maratona dal primo mattino a notte fonda. Si sa che il diavolo si nasconde nel dettaglio. Paradossalmente è come se, quando è arrivata la notizia che il piccolo Loris non aveva subito violenza carnale, nell'etere si fosse diffuso un inespresso e inesprimibile senso di delusione anziché di sollievo. Da Vermicino in poi, la cronaca nera, con i suoi sviluppi in diretta, fa impennare un audience che non sembra mai sazia di se stessa. Tuttavia non è questo un buon motivo per trasmettere comunque commenti, aggiornamenti, ipotesi, dubbi, tavole rotonde su una tragedia dai contorni ancora oscuri che ha come vittima un bambino di 8 anni. Penso, scrive Bettiza, che almeno la televisione di Stato dovrebbe astenersi da questa forma di accanimento mediatico, o quantomeno moderarlo, laddove le TV commerciali possono evidentemente permettersi di indugiare più a lungo su ogni dettaglio, anche recondito, di questa luttuosa e sconcertante pagina di prevaricazione e violenza. Così dunque scrive Bettiza sulla Stampa a proposito di queste vicende. Mentre una notizia sempre interessante per quel che riguarda gli immigrati e c'è sul Sole 24 Ore, a pagina 19, riguarda le rimesse, cioè i soldi che gli immigrati rispediscono a casa alle loro famiglie. È la Fondazione Moressa che racconta, Rossella Cadeo, a pagina 19, racconta come i rumeni abbiano superato i cinesi nell'ammontare di soldi rimandati a casa. Tutti i dettagli sono sul Sole 24 Ore, a pagina 19, c'è da dire che si racconta molti cinesi magari non mandano a casa perché si fanno sempre più imprenditori in Italia, investono in attività, soprattutto bar, soprattutto nella ristorazione, e poi rispediranno a casa evidentemente i soldi un po' più avanti. Vabbè, c'è un articolo che vi segnalo di Repubblica, pagina 25, un'intera pagina sul sindaco adepto di Scientology. È la storia di Resana, in provincia di Treviso, dove il sindaco Loris Mazzorato da 15 anni è adepto di Scientology e quindi governa. E lo dice a Repubblica: governo con le regole della setta. Mannaggia, ma che... questo è il titolo, è Caterina Giusberti, a pagina 25 di Repubblica. Convegni sulle scie chimiche, lezioni di esoterismo, l'applicazione dei comandamenti della chiesa di Ron Hubbard per gestire il comune di Resana, in provincia di Treviso. Vabbè, detto che J&J, e cioè Jeremie Menez e Jack Bonaventura, sono i nuovi idoli del Milan, e quindi quella loro è dedicata alla Gazzetta dello Sport. Siamo al momento della carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali oggi per Luigi Panza ci informa che su disposizione del sovrintendente Alexander Pereira alla Scala gli spettacoli inizieranno ora, incredibilmente, con shock, con 5 minuti di ritardo per permettere ai ritardatari di non essere allontanati e non partecipare allo spettacolo. Ma chi se ne frega!